Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, avremo anche, torna dopo la pausa estiva, la nostra poco invidiabile classifica, che come sempre si occuperà degli sprechi di denaro pubblico, qualunque sia la collocazione geografica dell'ente locale o statale e il colore politico degli amministratori che lo governano, così non torniamo sul tema dei 5 Stelle e della Raggi di ieri e dell'altro ieri. Ancora, per quello che riguarda i temi, segnaliamo, e sarà tema d'approfondimento, oltre alla vicenda Monte dei Paschi, andiamo subito sul titolo Monte dei Paschi, che devo dire perde l'1,60%, in compagnia della Popolare Emilia Romagna che perde l'1,90%, Unicredit l'1,50%, non c'è quindi un caso Monte dei Paschi in borsa. Le altre banche sono piatte o deboli, Banco Popolare meno 0,80% come Intesa San Paolo, di positiva c'è Ubibanca più 0,30%, Unipolsai più 0,38%, Generali più 1,60%. Dicevo, parleremo anche del Monte dei Paschi, ma anche della Germania, e ne parleremo con un uccellaccio che tornerà a trovarci anche lui dopo la pausa estiva. Perché lo dico? Perché abbiamo raccontato di una Germania in cui la disoccupazione è scesa a record da 25 anni a questa parte, in cui il surplus commerciale è altissimo nonostante Bruxelles avesse raccomandato a Berlino di avere un avanzo commerciale non superiore al 6% del PIL, la Germania andrà verso il 9% del PIL, quindi non rispettando quelle che sono regole che valgono sia quando fai troppo deficit, sia quando fai troppo avanzo, regole europee. Ciò nonostante, e abbiamo fatto la battuta 3 giorni fa dicendo: beh, se c'è un paese che non dovrebbe lamentarsi per la gestione dell'Europa e dell'euro, è la Germania, che ha, grazie anche al modello economico, ha tutti i dati positivi, non è mai andata così bene, ha i tassi di interesse bassissimi, ha un euro a 1,12, che come ammette oggi Schäuble, la Banca Centrale Europea è corresponsabile del nostro surplus, perché dice che con l'euro debole aumenta la bilancia commerciale tedesca. A parte il fatto che è un po' strano che il ministro delle finanze tedesco, il falco Wolfgang Schäuble, trovi modo per accusare di nuovo la BCE su una cosa che è un vantaggio tedesco, cioè almeno ringrazia Mario Draghi, ma grazie al fatto che l'euro è basso per via della politica messa in atto da Draghi, noi abbiamo un tale record di surplus commerciale. Benissimo, e che di che ti lamenti? E l'importante è che poi tu questi soldi li spenda. No. Schäuble lo dice quasi in maniera seccata: il surplus aumenterà anche nell'area euro, non bisogna meravigliarsi, la BCE, causando un deprezzamento dell'euro, è corresponsabile degli enormi surplus dell'export tedesco. Detto questo, non c'è solo Schäuble oggi a trovare una scusa, a mio avviso un po' peregrina, per cui accusare Draghi, ma c'è tutto il mondo tedesco che va all'attacco, e in particolar modo il capogruppo del PPE dei Popolari Europei a Bruxelles, Manfred Weber, che parla di soliti giochetti, accusando Alex Tsipras, il premier Matteo Renzi e il presidente francese François Hollande, che non dimostrerebbero senso di responsabilità per la decisione di partecipare al vertice anti-austerity di Atene. È un vertice organizzato ad Atene, appunto, dal premier ellenico Tsipras, a cui parteciperanno Renzi, Hollande, il premier maltese Muscat, quello portoghese Costa, il viceministro spagnolo degli affari dell'Unione Europea Fernando Guidazzu e il presidente cipriota. Ora io dico una cosa, ma in che mondo vive anche Weber? Ma un premier francese, italiano, sarà libero di partecipare ai vertici che vuole? Tra l'altro non è un vertice sovversivo, è fatto da presidenti del Consiglio di vari paesi dell'Unione Europea, ed è un vertice, diciamo, che rimette in discussione l'approccio tutto austerity tipico dell'Europa di questi anni e che tanti danni ha portato, visto che siamo ancora con un'Europa, un'area euro stagnante. c'è molto nervosismo. Io non capisco, ma se il paese che più è avvantaggiato dall'euro, che ha i conti messi meglio, è così nervoso, cosa dovrebbero fare gli altri? Ne parleremo dopo il GR delle 18, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, 349-238-6666 è anche il numero per WhatsApp. Rapidamente alle altre notizie in breve. Allora, dunque, sì, vedo molti messaggi anche sulla Germania. Andiamo con ordine, adesso ci arriviamo anche alla Germania. Di notizie internazionali soprattutto c'era questo. C'è una cosa interessante di cui magari ci occuperemo nelle prossime puntate che riguarda il settore marittimo. Avete letto sui giornali che cosa è successo? Che lo scorso 31 agosto il colosso dei cargo marittimi sudcoreano, e la Sud Corea è, se non ricordo male, il principale tra l'altro produttore di cargo al mondo, ma comunque si chiama Anjin Shipping, ha dichiarato bancarotta. Ci sono 66 navi con carichi da in tutto 15 miliardi di dollari che stanno vagando in mare aperto senza che nessuno li accorga, per timore che poi i servizi non vengano pagati. E tra l'altro la cosa interessante è che la crisi del settore del trasporto marittimo non riguarderebbe solo l'Anjin Shipping. 11 dei 12 più grandi operatori globali hanno riportato perdite molto ingenti negli ultimi esercizi a causa del rallentamento del commercio globale. E ci sono rischi, attenzione, anche per il settore bancario. Le banche sono da sempre molto esposte nello shipping. La BCE ha avviato un attento monitoraggio delle banche europee e di quanto sono esposte verso questo settore. In particolare la Germania sembra l'area più problematica, perché le prime 5 banche tedesche avrebbero a bilancio prestiti per un totale di 80 miliardi di euro nei confronti del trasporto marittimo. Commerzbank, che pure nel 2012 ha mollato questo business, ha ancora a bilancio 8 miliardi di euro di prestiti verso i trasportatori marittimi. Allora, ancora invece sul sì, voi mi dite i risultati dell'austerity, qualcuno mi scrive, beh, guardate che la Grecia ha ancora un PIL che è sotto del 25% sul 2008, la disoccupazione è al 24% dall'8% del 2008, la disoccupazione giovanile in Grecia è ancora al 48%, comunque. Allora, veniamo all'Italia. Oggi invece il direttore generale del ISM, Klaus Regling, ha detto che l'idea di un intervento del Fondo Salva Stati Europeo, l'ISM, per salvare il Monte dei Paschi, l'ho vista questa idea solo nella stampa italiana. L'ISM ha strumenti per iniettare in capitale, ma non è in discussione l'idea di un intervento sul Monte dei Paschi di Siena. Il nuovo numero uno del Monte dei Paschi di Siena verrà nominato al più tardi entro martedì, lo riferiscono fonti vicine al bordo del Monte dei Paschi. E il passaggio, visto il profilo scelto nella Banca Centrale Europea, potrebbe portare ad allungare i tempi di 24-48 ore. Il nome forte continua a essere quello di Marco Morelli, già vice direttore generale del Monte dei Paschi dal 2006 al 2010 e attualmente responsabile di Merrill Lynch, BOF Merrill Lynch. Sembra invece escluso, ma stiamo sempre all'ipotesi, quello di Corrado Passera, che a luglio aveva proposto con UBS un piano alternativo a quello adottato dalla banca senese. E purtroppo tornano a salire le sofferenze nel settore bancario. Lo fornisce oggi il dato della Banca d'Italia. Praticamente le sofferenze sono a 198 miliardi tutte complessivamente date. Allora, il dato del Ministero del Lavoro di oggi, che riflette la riduzione

inspiegabile a nostro avviso della Giunta Raggi, come si è insediata già due puntate. Quindi, a maggior ragione, visto che l'abbiamo sempre fatto, ci occupiamo anche degli altri. E partiamo e al di là del colore politico del luogo geografico, da Napoli, dalla Campania. Torniamo a occuparci dell'Istituto dei Tumori Pascale, che non è una cosa da poco, perché è il primo polo oncologico del Mezzogiorno. Torniamo a occuparcene, scusate, perché già ce ne occupammo a metà aprile, quando raccontammo la vicenda dei tre acceleratori lineari di un cyberknife, ognuno costato 7 milioni di euro, quindi 28 milioni di euro complessivamente spesi, acquistati dall'ospedale Pascale, ma che venivano sotto utilizzati. I tre acceleratori potrebbero funzionare per 12 ore al giorno e trattare 50 pazienti. Il cyberknife, che è una specie di bisturi virtuale per rimuovere i piccoli tumori, potrebbe trattare quotidianamente 10 pazienti. Perché lavorano solo 6 ore al giorno, cioè meno della metà? Perché mancano i tecnici, mancano gli infermieri, manca il personale. I tecnici erano 16 nel 2010, oggi sono 9. I pazienti, tant'è che scendono dal 2008, che erano 380, i pazienti nel frattempo aumentano da 380 nel 2008 a 1257. I pazienti che l'anno scorso dovevano sottoporsi alla radioterapia in Campania dovevano essere 15.000, sono stati solo 10.000, vuol dire che 5.000 o sono andati fuori regione, aumentando poi il deficit sanitario della Campania, o non hanno fatto quella cura, peggio ancora. Perché ne riparliamo? Perché oggi scopriamo che il personale all'osso, le sale operatorie che funzionano al 50%, i reparti chiusi a Ferragosto fanno lievitare all'ospedale Pascale le liste d'attesa, e il 20% dei pazienti è costretto a migrare al centro nord, cioè uno su cinque. Praticamente è entrata in funzione anche la nuova terapia intensiva, invece degli 8 posti letto ne hanno attivati solo 4. Qual è il motivo? Uno dice: ma come, c'è la disoccupazione che è al 24% al sud, abbiamo una disoccupazione a record? Il motivo è burocratico, cioè il nulla osta della regione Campania non è mai arrivato e nessuna gara d'appalto è stata espletata. E quindi è vero che c'è il commissario attuale, che si chiama Sergio Lodato, e sta cercando di metterci una pezza, ma pezza dopo pezza il Pascale sta perdendo i pezzi anche a livello dei responsabili. A maggio si è dimesso il direttore sanitario aziendale e il primario di anatomia patologica Gerardo Botti. Da gennaio manca il capo del personale. A gennaio è andato via anche il capo del provveditorato Elia Abbondante. È andato in pensione il direttore sanitario di presidio Ezio Olivieri. Nessuno di questi è stato sostituito. E dalla scorsa settimana il Pascale è anche orfano del subcommissario Germano Perito, che è passato a un altro incarico. Ora, la mancanza di dirigenti, come raccontano, diventa un ostacolo per qualunque cosa: l'acquisto di una tecnologia, l'attribuzione di un incarico, la firma. Il fronte infermieri, le sale operatorie dimezzate: si operava prima 5 giorni a settimana dalle 8 alle 18, adesso si chiudono i battenti alle 14.30. Prima avevamo a disposizione 12-15 sedute operatorie al mese, oggi la metà. Perché anche le nomine sono bloccate? Torniamo sempre alla regione Campania. Secondo alcuni, infatti, la scelta del manager principale sarebbe in alto mare per un braccio di ferro tra i due consiglieri del governatore, da un lato Enrico Coscioni, dall'altro Marco De Fazio. Tutto molto interessante, De Fazio appoggerebbe Ernesto Esposito, Coscioni non condividerebbe, tutto molto interessante, ma chi se ne frega, trovate il responsabile e nominatelo. È il primo polo oncologico del Mezzogiorno e già attualmente uno su cinque va a farsi radioterapie, chemioterapie e altri interventi fuori dalla Campania. E tra l'altro la cosa in questo caso che non si può dire è che manchino gli strumenti, perché la spesa di 28 milioni di euro c'è stata, mancano le persone. Invece c'erano i dirigenti alla ASL di Foggia, qui andiamo al quarto posto, dove sono riusciti, la cosa del 2012, si è scoperta però nel 2014 dopo la denuncia e un'inchiesta coordinata dalla Procura di Foggia. Insomma, si scopre che tra il 2008 e il 2011 l'ASL di Foggia acquista quasi un migliaio di flaconi di disinfettante. Dice: vabbè, ma adesso Barisone ti occupi pure di un migliaio di flaconi di disinfettante, tra l'altro il prezzo sul mercato della marca Sceta inglese era 48 sterline, circa 60 euro. Ma di cosa ti occupi? Di una cifra sostanzialmente così bassa? No, perché sapete quanto li hanno pagati questi 1000 flaconi invece che 60 euro, che era il prezzo di mercato? Allora facciamo così, adesso io metto la pubblicità, dopo potete scrivere su WhatsApp 349-238-6666, WhatsApp, SMS, un flacone di disinfettante che costa a mercato non oltre 60 euro, quanto l'avrà pagato per 3 anni la ASL di Foggia? A quanto sarà arrivata? Dopo il meteo, la risposta. Focus Economia. La classifica della settimana. Di nuovo in diretta, devo dire che abbiamo ascoltatori molto ingenui, perché che non ho precisato il colore della giunta regionale, devo precisare il colore della giunta di chi governa in Campania, cioè il PD, non l'ho detto, l'ho detto il PD, per carità, ci mancherebbe, sull'ospedale Pascale di Napoli. No, devo dire che siete molto ottimisti su quanto ha pagato la ASL di Foggia i flaconi di disinfettante che costano a mercato non più di, costavano a mercato non più di 60 euro, 48 sterline per la precisione. C'è chi ha scritto 320 euro, 120 euro, ma no, ma ragazzi, se no non ce ne occuperemmo. È riuscita a pagare la ASL di Foggia flaconi da disinfettante dal costo di 60 euro, 1920 euro l'uno, per una spesa complessiva di 1.600.000 euro per meno di 1000 flaconi, perché erano in realtà, dove cavolo era il numero complessivo, non me lo ricordo più, 830, eccolo qui. Tra l'altro, e qui veramente devo stare attento alla pressione, i flaconi erano pure inutili, perché questo disinfettante era già presente negli ospedali foggiani. Meno male che la cosa viene segnalata dal responsabile dell'ospedale di San Severo, Giuseppe D'Alessandro, la direzione amministrativa lì prende avvio l'inchiesta della procura. La Corte dei Conti ha già tratto le sue conclusioni e ha sentenziato i dipendenti della ASL foggiana, Romolo De Francesco, Nazario Di Stefano, Nicola Marinaro e Giovanni Grilli, almeno diciamo i nomi, tanto la vergogna di solito non si conosce in questi casi, ma almeno diciamo i nomi, condannati a pagare poco più di 1.600.000 euro. Nello specifico, la responsabilità dell'illecito acquisto di disinfettante debba scriversi, scrive la Corte dei Conti, sia De Francesco, dirigente d'area patrimonio dell'ASL, che i funzionari istruttori Grilli, Di Stefano e Marinaro, che hanno concorso alla formazione delle determine di liquidazione in favore della Fly SRL. La Fly SRL è l'azienda che dal 2008 forniva il disinfettante in una gara che la Corte dei Conti definisce falsata e priva di concorrenza. Ma ragazzi, ma 1920 euro invece che 60? Marinaro, e meno male, dovrà risarcire l'ASL Foggia pagando 160.000 euro, pari al danno procurato con l'acquisto dei primi 90 flaconi, e poi De Francesco e Di Stefano dovranno pagare 1.100.000 euro. Lo stesso De Francesco dovrà pagare poi altri 240.000 euro insieme con Grilli e 37.000 assieme a Marinaro, totale 1.500.000 di euro, a cui si aggiunge il risarcimento di altri 62.000 euro che spetta Di Francesco, Di Stefano e Marinaro per il danno causato all'acquisto di copriscarpe. Pure sui copriscarpe io voglio ridirli sti nomi: Romolo De Francesco, Nazario Di Stefano, Nicola Marinaro e Giovanni Grilli. Se mancano poi i soldi per altre cose nella sanità pugliese, nel caso specifico foggiana, gli ascoltatori di Foggia sanno in parte anche a cosa è dovuto, perché questo è solo l'acquisto dal 2008-2011 con questa Fly SRL. Vabbè, io non lo so se vi fossero mazzette sotto, però diciamo delle due l'una, non so se mi sento peggio, se devo pensare alle mazzette o se devo pensare all'incompetenza di uno che compra invece che per 60 euro a 1920 euro. Sapevo che non ce la facevo, stare tranquillo. E andiamo invece su un'altra vicenda che si becca il nostro terzo posto. Perché? Perché andiamo alla una vicenda gravissima. Ricorderete lo scontro dello scorso 12 luglio sulla linea Andria-Corato, 23 persone morte. Allora, che cosa è successo? La procedura riservata ai parenti delle vittime e dei feriti nello scontro per i treni prevede che per ottenere il risarcimento dei danni si debba anche, tra i documenti che devono essere consegnati, portare il titolo di viaggio della ferrotramviaria, cioè il biglietto obliterato. Ora, il problema è, e lo dico con massimo rispetto, che i parenti delle vittime avrebbero dovuto in quei giorni, in quelle ore, recuperare i resti del ticket obliterato la mattina del 12 luglio dal corpo della vittima, ammesso e non concesso, perché ci ricordiamo tutti le immagini dei due treni che sono scontrati, che fosse possibile recuperare il biglietto del treno. Ora, anche lì un po' di granus salis. A denunciare la vicenda l'hanno fatta alcune dei parenti delle vittime, indicando la società Spada, che è stata incaricata da Ferrotramviaria di seguire gli sviluppi assicurativi dell'incidente. La società ferroviaria del Nord Barese si tira fuori, però dice non ha mai gestito la parte relativa ai risarcimenti, lo fa la società Spada. Allora, la società Spada in una nota ha smentito, dice che la presentazione del titolo di viaggio non è considerata una condizio sine qua non. Però dobbiamo tutelare chi era sui convogli ferroviari evitando possibili abusi. Quindi la mancanza del biglietto è ovviamente superata dalla presentazione di altri elementi che comprovino la presenza del reclamante sui detti convogli al momento dell'evento: certificati di ricovero, primo soccorso sul posto, assistenza medico. Tutti già richiesti comunque nella comunicazione, per cui insomma non serviva il biglietto. E questa è la cavolata che ha fatto la società Spada. C'è una cosa che però va detta alla cosiddetta società civile, non la società Spada, la società civile. Perché nasce anche questa esigenza? Perché la cosa disgustosa è che alcuni sciacalli, nei giorni successivi all'incidente, alcune persone che non erano sul treno si sarebbero presentate in ospedale per farsi refertare ferite procurate durante l'incidente ferroviario. Ora, massimo disprezzo, o meglio, diciamo, massima critica alla società Spada, perché come fai a chiedere al parente di una vittima il biglietto ferroviario, l'obliterazione? Ma di cosa stiamo parlando? Dopodiché, massimo schifo e vergogna per chi si è presentato in un ospedale facendo finta di essere una vittima di un incidente che ha causato 23 morti. A proposito, ogni tanto, anche della società civile. Quarto posto, andiamo in Sicilia, quindi abbiamo fatto Campania. Secondo posto, scusate, abbiamo fatto Campania, abbiamo fatto Puglia, di nuovo Puglia, Sicilia, e chiuderemo con la Lombardia. Ripeto, oggi volutamente Roma la teniamo fuori, così riequilibriamo. Allora, 29 dipendenti dell'ex provincia regionale di Siracusa, indagati dalla Guardia di Finanza. Assenteismo, ma c'è di tutto. Allora, c'erano i 16 dipendenti del mini museo temporaneo di via Roma, solo due restavano in sede nei turni. Lo stesso responsabile dello spazio espositivo non solo ometteva il controllo sui suoi dipendenti, ma lui stesso si assentava. Adesso questo è anche comprensibile, ma se tu sei il primo ad assentarti, come fai a controllare gli assenteisti? Andava a fare shopping, si dedicava a faccende personali e familiari. Tra gli impiegati del mini museo, alcuni si recavano al centro Enel a pagare le bollette, altri all'INPS, due di loro facevano un doppio lavoro, le signore andavano a fare la spesa allo storico mercato dell'Ortigia, ma c'erano anche due donne le quali dovevano essere in ufficio dalle 14 alle 18, ma arrivavano un'ora dopo, perché quando arrivavano timbravano e poi andavano a fare shopping, negozi di abbigliamento nel centro storico. Ma hanno beccato un altro che nell'orario d'ufficio faceva tappa al Molo Sant'Antonio e prendeva il sole su una panchina. Ma voglio dire, ma sempre meglio che lavorare, Un altro, oltre ai 16 dipendenti, sono indagati anche altri impiegati di vari uffici: il capo di gabinetto Giovanni Battaglia e la sua compagna Amalia Ansaldi, dipendente dello stesso ufficio. Gli impiegati, questo è bellissimo, andavano anche, oltre che a fare shopping, negli ipermercati, le visite mediche in strutture private in ospedale. Oh, e ce n'è una che secondo me invece andrebbe trattata un po' meglio, perché lei è vero che timbrava e non stava al lavoro, ma dove andava? Andava a messa. Io non so se nella dottrina cattolica la messa possa essere una giustificazione per non recarsi al lavoro. Io ricordo una cosa che era: dare a Cesare quel che di Cesare e a Dio quel che di Dio. Però insomma, lei andava a messa e magari si confessava pure, magari si confessava del fatto non sono stata al lavoro. È bellissima questa cosa, capisci? Va a messa, ma porca miseria, ma la messa, almeno la messa, si può fare fuori dall'ora di lavoro? O istituiamo delle cappelle interne e magari eludiamo l'assenteismo? Ultimo, o meglio, primo posto della nostra classifica, andiamo al vincitore della settimana. And the winner is... la Regione Lombardia sul doppio fronte dei premi AI di manager e di quanto è successo a un manager invece, che è un medico e si chiama Marco Cicardi, rimosso dal suo incarico. Era la guida del Dipartimento di Medicina dell'Ospedale Sacco, uno dei più importanti di Milano. Andiamo con ordine. Mentre la Regione Lombardia premia anche quest'anno tutti i suoi manager che hanno tutti, dicesi tutti, raggiunto gli obiettivi prefissati, e quindi 39 bonus oltre lo stipendio per gli incarichi amministrativi di vertice, in media sono 32.000 euro a testa, 1.230.000, un po' meno dell'anno scorso, per carità, però tutti e 39 tutti riescono a raggiungere gli obiettivi. Ed è lì, anche qui, delle due l'una: o li hai scelti solo ad Harvard e nelle migliori università del mondo, o gli obiettivi sono troppo bassi e facili da raggiungere. 44 direttori di servizio a Palazzo Lombardia, la retribuzione lorda media esclusi i premi di 136.000 euro l'anno, e anche il più pagato di tutti è quello che ha ottenuto il premio più alto, Antonello Turturiello, 195.000 euro più 48.500 euro aggiuntivi. Sarà tutto regolare, però lo raccontiamo. Ha preso il posto di Giuseppe Bonomi, passato in Ara Expo. Poi anche lui, Roberto Albonetti, 186.000 euro più 40.000 euro di premio. E via così tutti. Perfino Giacomo Ciriello, che è pure indagato per induzione indebita, però perché avrebbe fatto pressioni sui funzionari di Expo, SPA e di Opolis, perché ha assumesso persone vicine al presidente della regione. Comunque, nella top 10 dei meglio premiati ben 6 sono quelli che lavorano nella direzione presidenza, cioè a stretta fiducia di Maroni. Poi c'è il capitolo degli incarichi dirigenziali, dirigenti settore, un gradino sotto. Sono stati elargiti 148 premi, 15.000 euro ad ognuno, spesa totale 2.200.000. E vabbè così. E poi ci sono anche gli uffici del consiglio regionale, lì più pagato è il segretario generale Romano Colozzi, 160.000 euro più 30.000 euro di premio. Tutti hanno beccato il premio. Allora, vabbè, evidentemente tutti bravi. Va bene, tutti bravi, tutti. Poi cosa succede invece? Un dirigente, non c'entra niente con la Regione Lombardia, è un medico, una vita dedicata alla medicina, si chiama Marco Cicardi. Che cosa compie? In un'intervista lo scorso 18 agosto, che tra l'altro lessi anch'io sulle cronache locali del Corriere della Sera, sulle cronache milanesi, dice semplicemente quello che molti suoi colleghi medici stanno sostenendo da tempo, che con la riforma, diciamo, della sanità lombarda tutto si è immobilizzato. La riforma vista da dentro gli ospedali è surreale, si vive la giornata contando solo sulla buona volontà di chi lavora. Allora, voglio dire, siccome questo è anche un dirigente e sta dando un'indicazione e sta dicendo che la riforma crea dei problemi a chi deve lavorare, ai medici, cosa fa cosa si fa di solito? Lo si ascolta, lo si chiama, dice qual è il problema, perché fai questa denuncia anche su Corriere della Sera. Non è che ci fosse nessuna offesa, dice semplicemente che tutto è mobilizzato. E la critica era rivolta alla legge regionale dell'agosto 2015, che dovrebbe rivoluzionare, nelle buone intenzioni, ci crediamo, le buone intenzioni del governatore Maroni, doveva rivoluzionare la sanità lombarda, no? E quindi passare dal curare al prendersi cura del malato, un'assistenza maggiore fuori l'ospedale. Provvedimento molto importante, i medici restano molto dubbiosi e giustamente, siccome sono loro che devono metterlo anche in pratica, è giusto ascoltarli. Poi uno decide, ma ascolta. No, che cosa capita a Cicardi in una regione che premia tutti i dirigenti, come abbiamo appena raccontato, soprattutto quelli vicini al governatore Maroni? Cicardi viene rimosso dall'incarico, non da Maroni, il quale dice: io rispetto l'autonomia dei direttori generali, altrimenti comanda sempre la politica. Viene rimosso dal direttore generale dell'ospedale Sacco, Alessandro Visconti, manager in quota Lega, che chiaramente o ha ecceduto in zelo o si è sentito con Maroni. Immaginiamo che abbia ecceduto in zelo, per carità, ma è sempre sbagliato. Lo rimuove e con la motivazione che Marco Cicardi, senza alcuna preventiva informativa e comunicazione alla direzione generale, come previsto dal codice di comportamento aziendale, ha rilasciato nella sua qualità di direttore del Dipartimento di Medicina un'intervista esprimendo aspre critiche. Ma dove siamo? In Sud Corea? Ha detto semplicemente che la riforma stava creando problemi. Ho letto il testo, si vive la giornata contando sulla volontà e tutto immobilizzato, hanno un problema nell'applicarla. Siccome Kim Il-sung non è ancora in Regione Lombardia, ha detto questo, non ha detto che siete dei ladri, che quello c'è la querela, ok? Cosa volete la regia? Nord Corea, ho detto Sud Corea, scusatemi, Nord Corea, Kim Il-jong, Kim Il-sung. Ah. Allora, ha detto semplicemente questo: viene rimosso il primo di settembre, torna a essere primario, perde il coordinamento di tutti i reparti di medicina e il demansionamento porta con sé, oltre a un danno al prestigio, anche una decurtazione dello stipendio di 15.000 euro l'anno. Complimenti ad Alessandro Visconti, adesso stavano cercando di metterci una pezza perché ho visto che c'è stato anche un, sono insorti i primari, 50 primari, il rettore Vago cerca di metterci una pezza, ma insomma, caro Alessandro Visconti, direttore generale del Sacco, ma oltre che rimuovere uno che dice che sta riforma gli sta creando dei problemi, state pensando anche a farla, a implementarla sta riforma? Perché a me sembra che 39 dirigenti alla Regione Lombardia, tutti degni di un bonus minimo da 40.000 euro. Un dirigente, non della Regione Lombardia, ma del Sacco, che dice abbiamo problemi a applicarla, viene rimosso. Ok? E diamogli un applauso a sto Alessandro Visconti, direttore generale del Sacco, dai, che ha rimosso con eccesso di zelo subito. Non si può parlare. Zitto tu, cosa dici? Ti permetti di parlare? Bravo Visconti. Prossimo che mi scrive che ce la prendiamo solo con Roma e con la Raggi, capito? Lo invito in trasmissione, va bene? E comunque torneremo a occuparci anche di Roma e della gestione Atakea, ma non della Raggi, della gestione dei soldi pubblici degli italiani. Ci siamo, lo dico anche ai 5 Stelle che tutta la settimana che... ok? Antonio Caraviello, numero uno e cofondatore di Sofia High Tech, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera a lei, stia un buonasera. Attimo in linea Caraviello che abbiamo il traffico e poi torniamo da lei, 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24. Vedo che oggi si stanno arrabbiando i leghisti e vabbè dai, mai una gioia, come dice un mio amico, traffico. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago, 8-11 settembre. Vi presento Focus Economia. Allora, da alcuni ascoltatori abbiamo dato il dato sugli occupati a tempo determinato in calo come effetto della decontribuzione più bassa, ma soprattutto abbiamo fatto intere puntate anche la settimana scorsa sui dati brutti sull'occupazione, criticando anche, diciamo, la definizione che mi ha dato il ministro Poletti, okay? Però oggi è venerdì e c'è la classifica. Comunque, e come sempre dopo la classifica c'è il caso virtuoso. Cosa fa Sofia High Tech, dottor Caraviello, e dove l'avete fondata e quando? Sì, innanzitutto il nome corretto è Sofia, quindi abbiamo ereditato l'accento greco della parola Sofia, che la traduzione proprio letterale è conoscenza. Sofia è nata all'incirca 3 anni fa, precisamente il 10 luglio 2013, e opera a Marcianise, che è un comune in provincia di Caserta. Allora, l'azienda adesso vanta 15 collaboratori ed lavora nel settore testing. Insomma, nel caso specifico progetta e realizza attrezzature per eseguire test meccanici, attrezzature e macchine. Quindi è un modello di business che è unico sul territorio nazionale. Mi può fare mi faccio un esempio di un test meccanico, insomma, che capiamo, che capisco anch'io. Il test meccanico che attualmente noi in pratica sul quale noi lavoriamo sono sempre su materiali compositi, quindi tipicamente uno dei materiali più importanti che si va a testare è proprio il materiale composito, che sono materiali alto performanti che si utilizzano nel settore dell'avionica piuttosto che dello spazio, piuttosto che dei trasporti. E questo è come è nata questa società? È lei è uno dei soci, cofondatore? Lei che sì, cosa esatto. Ha laureato? Dove lavorava prima? Io sono laureato in ingegneria meccanica, che ho conseguito alla Federico II. A Napoli, quindi? Poi a Napoli, sì, esatto. Poi dopo 2 anni di lavoro all'estero in Germania, presso Airbus, ho deciso insomma di stracciare il certo per rincorrere l'incerto e quindi sono sceso nuovamente in Italia. Ho cominciato un percorso di dottorato di ricerca che si è concluso un anno fa e in contemporanea è nata Sofia. Quindi Sofia nasce, i soldi che oltre a lei chi c'era e i soldi che ve li ha dati? Allora, oltre a me ci sono altre tre persone, altri tre dottori di ricerca, sempre che hanno conseguito prima il titolo di ingegnere e poi il dottore di ricerca presso la Federico II, e i soldi sono mezzi propri. Sono i lavori fatti da cameriere, i lavori fatti da dopo-scuola, quel poco raccimolato in Germania. Cioè tutti i soldi vostri? Sì, tutti i mezzi propri. L'aiuto diciamo dello Stato di Invitalia è avvenuta a rendicontazione dopo. Ma le banche non hanno finanziato crowdfunding, il progetto, startup? Adesso cominciano a contattarsi. Siamo su un M4 rating, quindi meglio tardi che mai, Caraviello, cosa devo dirle? Sì. No, nel senso che non è purtroppo, facciamo da un po' di tempo questo appuntamento, le banche. Sì. Comunque va bene. Guardi, io penso una cosa, che il primo modo per avere successo è comunque metterci il proprio rischio. Ma questo quindi è giusto, il proprio capitale, certo. Esatto, perché solo così, quando cominci a non dormire la notte, allora arrivano i risultati. Senta, adesso lei mi diceva, siete partiti in quattro, siete 15 dipendenti, sì. Cosa state fatturando? L'anno scorso abbiamo chiuso intorno ai 500. E 500 euro o 500.000? 500.000 euro. Ecco, meglio. E questa, sicuramente. E quest'anno stiamo lavorando per 1.000.000. 1.000.000 di euro. Bravi, in bocca sì. al lupo a lei, ai 15 dipendenti, ai 4 soci che hanno messo i loro soldi nel loro lavoro, anche così si fa. Poi se ci fosse anche qualcuno che crede anche nei progetti e in chi mette i suoi soldi personali nei progetti, saremmo veramente un bellissimo paese. Grazie anche a Antonio Caraviello, cofondatore di Sofia Hi-Tech, e in bocca al lupo a lei, anche perché l'avete sviluppata in un'area difficile come il nostro Mezzogiorno. Oh, così mi ripiglio anch'io quando sento questi racconti, dai. Andiamo con il GR24 e poi parliamo di borsa e di Germania. Nervosissima la Germania. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, -1,26% la chiusura di Milano. Ci sentiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. -18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e adesso parliamo di borsa. Devo dare due messaggi a chi si è perso la risposta sul costo del flacone da massimo 60 euro di disinfettante pagato per anni dalla ASL di Foggia. Era 1920 euro la risposta corretta. A chi mi scrive: ma avete letto i dati del Ministero del Lavoro? Li abbiamo letti e riletti, in cui c'è stato un calo delle assunzioni a tempo indeterminato pari a quasi il 30%, 29,5% nel secondo trimestre, come di contratti stabili, come conseguenza della diminuzione della decontribuzione. Questo dice il Ministero del Lavoro. I numeri risentono della riduzione dell'incentivo, ma che i numeri sull'occupazione non stiano andando bene lo abbiamo stracommentato la settimana scorsa con gli altri numeri, quelli dell'Istat su occupati, disoccupati, inattivi e giovani. Borsa, dicevamo, caso Monte dei Paschi, che non c'è stato come caso, diciamo, di borsa. Il titolo alla fine ha perso il 2,21%, però devo dire che la Popolare Emilia Romagna perde il 2% e che da questo punto di vista Unicredit l'1,5%. Non c'è, diciamo, un calo particolarmente forte del Monte dei Paschi dopo l'addio sorpresa di ieri di Fabrizio Viola. Vi leggo alcune dichiarazioni oggi rese, oltre a quella di Regling, quindi il numero uno, direttore generale del Fondo Salva Stati ISM, che ha detto: non è in discussione il nostro intervento nella vicenda Monte dei Paschi, è un'ipotesi che ho letto solo sulla stampa italiana. Ieri fonti del Ministero dell'Economia e Finanze dicevano che sul Monte dei Paschi la situazione è sotto controllo. Oggi fonti interne al Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi dicono che il nuovo numero uno arriverà entro martedì. Favorito resta Marco Morelli, già vice direttore generale del Monte dei Paschi dal 2006-2010, responsabile di BOF Merrill Lynch. E poi la Fondazione Monte dei Paschi dice che bisogna arrivare quanto prima all'individuazione condivisa di una professionalità di alto profilo in grado di ricoprire la carica di amministratore delegato, visto che dovrà affrontare le importanti sfide future a partire dall'attuazione del piano industriale e quindi l'aumento di capitale. Aggiungo io, i sindacati hanno scritto al presidente del Monte dei Paschi Massimo Tononi chiedendo nel più breve tempo possibile di risolvere la situazione di incertezza creata dalle dimissioni dell'amministratore delegato. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Altre notizie sul Monte? No, altre notizie non ci sono. Diciamo che la fondazione MPS, che a suo tempo ha avuto un peso molto importante nell'istituto, che ha sceso adesso all'1,5%, ha segnalato che l'individuazione del nuovo amministratore delegato deve essere condivisa, ma in realtà insomma i giochi sembrano quasi fatti, e già del resto era quello che emergeva ieri sera dopo le dimissioni a sorpresa, mm-hmm. Cioè si va verso un'indicazione di Morelli, anche perché c'è la necessità di una figura che conosca già bene la banca, e quindi serve un manager subito pronto. Il mercato però non ha reagito in maniera troppo significativa, anche perché restano sul tavolo le stesse incertezze di prima sui tempi dell'aumento di capitale, probabilmente potrebbe slittare di qualche mese, e questa a maggior ragione con l'inserimento di un nuovo manager, quindi all'inizio del 2017, e soprattutto la struttura dell'aumento di capitale, ci ricordiamo che si parla oltre dei 5 miliardi, ma anche di una parte in conversione di bond subordinati, quindi di ridurre la dimensione. Certo è che l'esecuzione dell'aumento di capitale, il rischio di esecuzione dell'aumento di capitale non sembra essere sceso, almeno per il momento, con il cambio della guardia, anche se si scegliesse Morelli sarebbe un soggetto molto vicino, diciamo, alle banche. No, questo è chiaro, faccio anche notare che il titolo solo rispetto a sostanzialmente giugno, quando ancora viaggiava intorno ai 59-60 euro per azione, vale un terzo, per cui ha perso praticamente due terzi del suo valore, è a 20 centesimi di euro per la precisione, oggi è chiuso a 23 centesimi, ne valeva circa 60 a giugno. Abbattere ulteriormente il titolo, per carità, ma è già a livelli minimi in assoluto. Circa lo 0,3% il patrimonio, valore di libro. Esatto. Allora andiamo avanti con il resto. Invece, bene generali, oggi in borsa più 1,40%, è l'unico titolo realmente positivo, poi c'è A2A più 0,20%. È un momento di buon recupero per il settore assicurativo europeo, non solo per le generali, che peraltro ha beneficiato, anche nei giorni scorsi ne parlavamo, della speculazione francese, diciamo così, AXA, l'ingresso di Società Generale, ma in generale il settore viene un po' riscoperto dagli investitori, tanto è vero che anche Unipolsai è stata a lungo positiva, AXA più 1% è stata la migliore a Parigi, così come Allianz ha guadagnato lo 0,7%, quindi il settore assicurativo è stato oggi il migliore in Europa, generali ne ha beneficiato, tornando sopra i 12 euro. Ancora andiamo con altri titoli per quello che riguarda la borsa. Unipol era positiva, poi ha chiuso più 0,15%. Invece sul Financial Times di oggi viene ipotizzato un aumento di capitale per il gruppo Unicredit addirittura da 10 miliardi, per carità, sembra tanta roba. Comunque il titolo... Sì, il titolo, diciamo, si è mosso insieme alle altre banche, quindi ha tenuto la prima parte della giornata e poi è scivolato dell'1,5% nella seconda parte della giornata. È chiaro che su questo titolo ci si è concentrati soprattutto sulle vendite di asset Pioneer o le partecipazioni in Polonia e in Turchia nelle ultime settimane. Resta l'interrogativo forte dell'aumento di capitale. Il Financial Times dice un aumento da 10 miliardi sarebbe molto superiore a quello che ci si aspettava fino a qualche giorno fa, ma è tutto nelle mani del nuovo amministratore delegato Musti e del suo piano, che a inizio novembre dovrebbe essere diffuso. Vorrei chiudere con due titoli, Poste Italiane, perché lì c'è la vicenda della cessione di Unicredit di Pioneer e Poste interessata, e Buzzi Unicem, perché anche oggi meno 2,60%, ha perso praticamente il 7% quasi in due giorni. Prego. E Poste è il peggior titolo, meno 3%. Per quanto riguarda Poste, questa novità, questa indiscrezione che sta prendendo forma sul fatto che Poste Italiane parteciperà a questa gara di Unicredit, a questa asta per le sue attività di risparmio gestito, in particolare Pioneer, una dimensione di circa 3 miliardi di euro, ecco, si conferma la perplessità del mercato su un investimento così importante. Qualche operatore dice ma forse sarebbe poi necessario un aumento di capitale di Poste, o forse verrà rivista chiaramente la politica dei dividendi, per quanto il settore del risparmio gestito è uno di quelli indicati come core business, come punto di sviluppo per Poste Italiane nel futuro, fin dalla quotazione un anno fa. Buzzi Unicem invece ha perso ancora, come tu ricordavi, due sedute consecutive di calo. Ieri nel corso del convegno sulle infrastrutture in borsa, l'amministratore delegato Pietro Buzzi ha segnalato un rallentamento delle vendite di cemento negli Stati Uniti nei mesi estivi, quindi dopo luglio, anche agosto, non troppo soddisfacente. Il mercato ne ha approfittato, anche perché il titolo era vicino a 19 euro, era cioè ai massimi da circa 8 anni, e ne ha approfittato per due sedute di rialzi consistenti. Allora, andiamo anche sui migliori e peggiori in assoluto. Poste Italiane -2,98, dicevamo, Recordati -2,80, Buzzi Unice -2,60, Campari -2,50, Terna -2,40, Exor -2,20, Snam -2%, sempre su Fuzzi Mib. Di positivo non c'è altro, oltre ai titoli già citati, quindi Generali A2A, e aggiungiamo ST Microelectronics +0,22. Migliori e peggiori in assoluto: Visibilia Editore +47%, Conafi +19%, Intec +14%, Molmed +5,90. Peggiori in assoluto: Novare -18,50, Clabo -7%, D-Mail Group -7%. Grazie e buon fine settimana ad Andrea Fontana e colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Traffico, e poi è tornato a trovarci dopo la pausa estiva un uccellaccio a noi molto noto, con cui parleremo di queste attacchi un po' scomposti, un po' pretestuosi, vediamo, di vari leader tedeschi, il ministro delle finanze Schäuble, il presidente Pepe Weber, tutti molto nervosi in Germania, nonostante abbiano degli ottimi dati economici. Focus Economia. Addio Lugano bella, o dolce terra mia, scacciati senza colpa gli anarchici. Eh sì, riprendiamo l'accusa di essere anarchici, oltre che anti-grillini, anti-Forza Italia, anti-tutto, lo scherzo dell'ascoltatore di ieri, però per parlare di una cosa serissima, perché oggi registriamo l'attacco del leader del PPE al Parlamento Europeo, Manfred Weber, contro i soliti giochetti di Tsipras, Renzi e Hollande, che partecipando al vertice anti-austerity di Atene dimostrerebbero scarso senso di responsabilità. Il primo ministro Tsipras è tornato ai suoi soliti giochetti. Nel frattempo anche il presidente dell'Eurogruppo, che è olandese ma diciamo, molto filo tedesco, Ron Dijsselbloem, ha detto la Grecia deve rimettersi al lavoro perché l'estate è finita. E poi abbiamo pure il falco tedesco Wolfgang Schäuble, che dice è colpa di Draghi e della BCS, la Germania ha così tanto surplus commerciale, l'Europa gli aveva chiesto di non andare oltre il 6%, è arrivata al 9%, un record mondiale di avanzo di bilancio commerciale, colpa di Draghi che tiene l'euro basso. Nel frattempo, poco fa è arrivata una dichiarazione del Premier Renzi al termine proprio del vertice Euromed ad Atene, in cui c'era anche il leader cipriota, il vice ministro spagnolo, François Hollande, appunto Tsipras, non è che fosse un gruppo di anarchici dal cravattino nero, come canta Addio Lugano Bella. Sentiamo Renzi. Siamo in una fase in cui l'Europa non può continuare ad essere soltanto regole, technicalities, finanza e austerity. L'Europa di domani dovrà essere innanzitutto basata e concentrata sui valori profondi che l'hanno fatta grande. L'Europa sociale, l'Europa degli ideali, l'Europa della bellezza. Ecco, in questo senso, a mio giudizio, la dichiarazione di Atene è importante perché aggiunge un contributo rilevante nella descrizione di un'Europa diversa da quella che abbiamo visto sino ad oggi. Luce l'uccellaccio, forse preferiva Dio Lugano Bella, comunque è l'uccellaccio. No, sono un uomo d'ordine torinese. Bene, ha ragione. L'uccellaccio Giulio Sapelli, docente di storia economica alla Statale di Milano. Buonasera, professore. Ecco, mi chiami professore, docente non mi piace, ma comunque lasciamo perdere. Vabbè, la chiamo come vuole lei. Mi dica che cosa pensa di ordinario. Va bene. Non straordinario, ordinario, uomo senza qualità. Cosa penso? Penso che è cominciata la campagna elettorale perché il centro si sta sgretolando, le destre aumentano, i signori tedeschi che lei ha citato, l'economia non c'entra nulla, è una battaglia politica. La CDU, dopo la sconfitta, per carità, limitata, Mecklenburg-Vorpommern e 1,5 milioni di abitanti, un pugno di elettori, però la CDU e anche l'SPD e anche addirittura Die Linke, l'estrema sinistra, ha avuto tutti hanno perso il 5%, che hanno fatto sì che Alternative für Deutschland arrivasse, perché ha preso anche i voti degli ex nazisti, arrivasse al 20% e passa. Però mi scusi, forse Sapelli, la domanda è ingenua, ma abbiamo visto questa settimana Angela Merkel ricordare come la disoccupazione sia ai livelli più bassi in Germania da 25 anni, hanno un surplus commerciale del 9%. Cioè, stanno benissimo, è l'unico paese. Calma, ma scusa, ma una persona intelligente come lei, non è vero che stanno benissimo. E anche la Merkel fa la campagna elettorale. Scusi, ma guardi che i dati della crescita tedesca, la crescita tedesca non c'è. Questo siamo d'accordo. Continua a crescere nell'esportazione, esportano, ma anche loro hanno un terribile problema di domanda interna. E poi hanno un terribile problema che porta alla deflazione, loro e noi, di crollo demografico. Scusi, ma lei crede alla Merkel? Ma la Merkel è una totus politico. Si ricordi che la signora Merkel ha pugnalato alla schiena Kohl, che l'aveva tirata su dalla Germania Est, aveva portato, ma la Merkel è un grande leader politico machiavellico, e la cosa che colpisce è come in Germania poi ci fanno le elezioni a noi, l'indipendenza della banca centrale tedesca non esiste. Questo è vero, perché Weidmann sembra Weidmann, un altro ministro del governo. Esatto, Weidmann fa politica. Scusi, ma noi abbiamo addirittura un'ambasciatrice tedesca in Germania, la signora Marianne von Volcker, la prima cosa che ha fatto quando è arrivata in Italia, ha invitato il signor Weidmann e hanno fatto una conferenza in streaming. Io conoscevo gli ambasciatori che quando arrivavano si presentavano alle credenziali e poi nessuno li sentiva più. Quindi lì tutti fanno politica. Se andiamo a vedere qual è la carriera diplomatica di questa nuova ambasciatrice, è nulla, è una collaboratrice politica della signora Merkel. Oh, io la ringrazio, Pelli, così anche i rapporti con l'ambasciata tedesca in Germania miglioreranno. Ma non è vero, io sono un grande amante di Wagner. Ho capito, sa che se ne frega i tedeschi in questo momento. Vado a Beirut, quindi leggo il tedesco. Vediamo se la fanno andare ancora a Beirut. Allora, a Beirut vado se pago. Mi sa che vado. Se avanti così va più a Beirut che a Beirut, Sapelli. No, Beirut mi spiace, io vado come occupante a Beirut quando torno a Roma. Non... Allora, tornando a noi, quindi lei dice tutto questo nervosismo in un paese che è vero che ha una crescita economica rallentata, tutto quello che vuoi, però ha dei conti, dei dati ottimi, è tutto di carattere politico. Cioè gioca una battaglia economica per motivi politici? Ma sì, ma certamente. Poi dopo, naturalmente, anche perché, scusi, il congresso di Atene non è un congresso dove ci sono tutti, ci sono i partiti socialisti e ci sono i leader socialisti, e quindi è cominciata, viva Renzi, apprezzo molto la sua dichiarazione. Ecco, così ci becchiamo di nuovo dei filorenziani anche oggi. Prego, non lo so, parlo io, lei no, certo. Voglio dire, so che lei tanto io sono sente tutto. Ogni tanto quello che io dico saltabecchiando da una nuvola all'altra, ma Renzi comincia, il problema è che deve riempire di contenuti queste dichiarazioni, perché bisogna fare politica, non agitazione e propaganda. Il quaderno dell'attivista del Partito Comunista faceva la distinzione tra propaganda e politica. Lui adesso deve riempire di politica, di progetti, deve dire se il fiscal compact gli va ancora bene o meno. E certo. Perché poi arriviamo lì. Cioè, ragazzi, non basta di l'Europa della bellezza. Ah, ecco. L'Europa, no, quello della bellezza poteva farne a meno. Voglio dire, ma se vuole risolvere i problemi del terremoto, guardi che con Maastricht non ce la farà mai, col fiscal compact. Quindi è arrivata, voglio dire, quello che sta capitando in America adesso, dove il gioco si fa duro, i working poor e i bianchi poveri votano a destra, e può essere il futuro dell'Europa. E Renzi, devo dire, e anche lo stesso Hollande, dico, se lo capisce anche Hollande, con tutto rispetto, voglio dire, no? Se lo capisce anche Hollande, hanno capito che il gioco e si fa. Anche l'ambasciata di Francia ce la siamo giocata, va bene. Quindi le dice: dico che queste dichiarazioni sono l'inizio del grande scontro sull'Europa, e il primo passo sarà che ruolo dovrà avere il Parlamento europeo per far vedere questa Europa della socialità, della bellezza. Bisogna fare in modo che la Commissione perda tutti i suoi poteri e il potere ricada sul Consiglio d'Europa, quindi i capi di governo e il Parlamento europeo. Questo è il primo passo. Se non facciamo questo, l'Europa si disgrega. Cioè lei dice, se lasciamo l'Europa ai commissari europei, che poi prendono ordine, come sappiamo, anche dai loro paesi di provenienza, dai loro schieramenti, l'Europa si disgrega. No, soprattutto i commissari europei prendono ordine dai tedeschi. Scusi, ma abbiamo avuto l'esempio di Monti, abbia pazienza. Ecco. Lei pensa che Monti sia stato un commissario italiano? Quando era commissario o quando era presidente del Consiglio? Mi faccia capire, visto. No, quando era commissario, ha mai letto Antonio Gramsci? Sì. Sulla vocazione cosmopolita e non nazionale delle nostre classi dirigenti, questo caso classi dominanti. Mm-hmm. Scusi, ma la realtà storica è davanti ai nostri occhi. Mi rendo conto che nessuno legge più Francesco De Santis, non legge più Gramsci, addirittura Vincenzo Cuoco. Ma queste, chiunque sa la storia d'Italia, ha letto Rosario Romeo, che era liberale, ma queste cose. Dove abbiamo noi commissari italiani? Ma c'era tutta gente che diceva che avevamo bisogno di uno shock esterno, perché noi eravamo dei nanetti incapaci senza shock esterno. Ma provi a dire questa cosa in Francia, o in Inghilterra, o in Germania, la sfidano a duello. Qui invece è stata l'ideologia del ciampismo per 20 anni. Adesso siamo arrivati al dunque. Per fortuna che è arrivato Renzi, che non dice più queste stupidaggini. Oh, ho capito, lei dice in questo caso riscoprire anche l'interesse nazionale, non, certo. E non questo. Ma certo, perché se no lo lasciamo interesse solo alla destra, se no lo lasciamo solo ai nazisti e ai fascisti che stanno risorgendo in tutta Europa. Sono d'accordo. Io ho paura, io ho 70 anni e ho paura di rivedere il fascismo e il nazismo. E quindi o ti riappropri di un tema politico che poi venga declinato economicamente, non cambia, il tema è politico. È la patria, l'Europa delle patrie. E non possiamo lasciarlo alla destra questo. Perché la destra oggi non c'è più. Le una faccio un'ultima domanda e le chiedo una risposta brevissima, professor Sapelli. Ma adesso se la Merkel e Schäuble si mettono a rincorrere Alternative for Deutschland, non rischiano di fare un errore? Cioè che poi uno vota comunque sempre l'originale e non... Esattamente, lei ha individuato, devo dire, come fa spesso, il problema, il centro del problema. Per quello le dico io, non bisogna rincorrere la destra, come fanno loro. Perché loro cosa fanno? Rincorrono la destra. Mm-hmm. E in questa politica di zigzag, insomma, non puoi fare 6 mesi prima quello che hai fatto sugli immigrati, l'accordo con la Turchia, poi quando vedi che va male, la destra avanza, tu ti ritiri. Devi cercare di spiegare al mercato politico, uso questo termine per farci capire, all'elettorato qual è la tua politica. Se ti ritrai, ma ragazzo, si dimostri di aver paura, ma le masse ti ammazzano. E la democrazia cristiana, e soprattutto la socialdemocrazia tedesca, che tradisce un'altra volta la Germania, tradisce la Germania, come ha fatto nella prima guerra mondiale, non nella seconda, perché lì ha avuto un insieme di martiri, di anti-hitleriani, no? Certo. Questa volta i socialdemocratici tedeschi non svolgono il ruolo, dovevano andare anche a loro ad Atene. Questo sono d'accordo con lei, dopo che mi ha citato pure Ortega e Gasset, l'ho ben capito, ma qua andiamo troppo in alto, voli via Sapelli, buon fine settimana anche lei. Grazie, non so dove volerà, lei, se verso ascoltatori, se pazienti e buoni. Pazienti e buoni, pazienti sicuramente. Da Sebastiano Barigioni un ringraziamento a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana, Pietro Lacorte in regia. Noi ci risentiamo lunedì, intanto l'augurio di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà, e a partire da chi dovrà passarlo lavorando. Radio 24, la passione si sente.